Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non una bella serata europea né per la Juventus né per la Fiorentina e nemmeno, fatta eccezione per l'Arsenal, per la qualità del calcio che si è visto. Chi ha potuto ammirare, si fa per dire, i gol subiti dall'Alborg contro il Manchester United si sarà reso conto che più che spettacolo era avanti spettacolo, insomma, altro che Champions League. Cominciamo dai commenti dei due allenatori italiani ed esattamente da quello di Ranieri. Sapevamo che avrebbero fatto questo tipo di partita, che era una squadra che giocava sempre in verticale, però ci hanno sorpreso, c'è poco da dire, non riuscivamo ad arginarli in nessuna parte del campo, perché le due punte che facevano un movimento pazzesco, questa palla sempre in verticale, trovavano sempre l'uomo giusto al momento giusto, per cui sono stati veramente mezz'ora da incubo. Siamo stati un pochettino leggeri a prendere il secondo gol con le grottaglie infortunato, questo sì è vero, però non è una scusante. Buon per noi che non ci siamo arresi, per cui la grande reazione della squadra, come siamo riusciti a fare due passaggi consecutivi, siamo riusciti ad entrare dentro, abbiamo fatto anche nel secondo tempo qualche buona occasione, però veramente non ci davano mai l'opportunità di poter giocare la palla, di poter fare qualche fraseggio di quello che sappiamo fare. Messaggio: sono Davide da Prato. Devo essere più contento per la grande partita di Giovinco oppure preoccupato per una squadra che si fa umiliare a quella maniera? Insomma, contento per la partita di Giovinco direi senza dubbio, aggiungerei anche quella di Iaquinta. Umiliare mi sembra una parola eccessiva, sballottare direi, ecco, la Juventus si è fatta per mezz'ora sballottare in un modo assolutamente preoccupante, questo lo trovo legittimo. Giovinco, molto bello, molto bella la sua dichiarazione. Ho saputo solo stamattina, l'ha detto evidentemente ieri sera, che avrei giocato, sono andato in campo sereno, mi sono trovato bene, purtroppo abbiamo pareggiato ancora una volta, gli era già successo nell'altra volta da titolare una settimana fa contro il Catania. Ma poi bello il finale: il mio sogno di bambino era giocare a fianco di Del Piero, non mi sembra ancora vero, l'ho fatto e l'ho fatto addirittura in Champions League. Io credo di aver forse annoiato anche un po' gli ascoltatori già da un anno a questa parte, sostenendo che al di là di tutti i nomi eclatanti che si facevano e che poi in qualche caso sono arrivati, in qualche altro caso no, e che continuano comunque a suggestionare i tifosi con i titoloni dei giornali, il futuro della Juventus mi sembra che passi innanzitutto per Giovinco come prima opzione, poi eventualmente si vedrà. L'altro commento, quello che arriva da Firenze, ed è di Prandelli. Abbiamo trovato delle difficoltà, però l'aspetto più importante è che non abbiamo subito gol, anche se abbiamo rischiato, e la squadra ha avuto uno spirito vero. Quindi quando ci sono questi presupposti, il gioco lo puoi correggere sempre. Chiaro, abbiamo trovato delle difficoltà, mi sono sembrati molto più freschi anche rispetto a noi, sui rimpalli, su situazioni magari un po' imprevedibili. Noi rispettiamo tutti, noi in questi tre anni abbiamo fatto tanto, mi sembra che questa squadra meriti solo comunque sempre applausi. Mi sembra che erano 7 anni che non erano in Champions, ci hanno chiesto la Champions, siamo arrivati, per noi è un'esperienza straordinaria. E secondo me dovremmo prenderla, come ho detto prima, della competizione con molta più serenità. Chiellini è irriconoscibile, impreciso e macchinoso, scrive un altro ascoltatore. Che mi pare si chiami Daniele, no, non si chiama Daniele, però i messaggi si susseguono e ogni tanto si incrociano. È vero, forse Chiellini, il rientro di Chiellini forse è stato un pochino affrettato, certamente non è il difensore a cui si è abituati, al di là poi dell'errore decisivo contro il Catania, ma lo si vede che, insomma, che non è particolarmente lui. Abbiamo parlato di due allenatori, il terzo rimbalza in attesa del quarto, con cui stiamo per collegarci, che è l'ospite di oggi, che annuncio con molto piacere perché si tratta di Ballardini. Il terzo allenatore in questa scaletta iniziale è Mourinho. Allora, è appena apparso un comunicato sul sito dell'Inter. Leggo testualmente: José Mourinho non guadagna 14 milioni, come ha detto ieri nel corso della conferenza stampa, e quanto ha voluto precisare l'Inter dopo che alcuni organi di stampa hanno riportato gli importi evocati in quella sede, conferendo loro un carattere di veridicità e in taluni casi quasi di ufficialità che non corrisponde minimamente alla realtà. Leggo, poi commenteremo magari nella seconda parte. FC Internazionale intende sottolineare che si è trattato di un semplice scambio di battute. FC Internazionale e José Mourinho intendono altresì precisare che nessuno degli importi evocati ieri nel corso della conferenza stampa corrisponde a quello oggetto del contratto di lavoro tra loro stipulato, evidentemente di molto inferiore. Ne parleremo. Ci sono allenatori forse normali che con un uso sapiente del marketing passano per speciali e ci sono allenatori forse speciali che tenendosi ben alla larga dal marketing appaiono fin troppo normali. Mi piacerebbe sapere da Davide Ballardini, tecnico del Palermo, a quale delle due categorie ritiene di appartenere, in quale si riconosce di più. Buongiorno Ballardini. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Insomma, è una domanda giusto per partire. Però sarei curioso davvero, visto che ho letto un po' le interviste sue e mi pare che lei non coltivi particolarmente la banalità, mi piacerebbe sapere in quale di queste due categorie insomma, pensa di riconoscersi di più. No, guardi, già la parola mi spaventa, che è marketing, quindi questa è la risposta. Questa è già la risposta. Già la sola parola marketing non è particolarmente congeniale. No. È una parola che faccio poi fatica anche a tradurre, quindi non so bene cosa significhi. Restiamo in patria e restiamo all'italiano. Lo scorso anno lei ha fatto un capolavoro a Cagliari, questo oggettivamente riconosciuto e credo con... insomma da tutti accettato con, insomma, in questa ottica. Quest'anno piano con i capolavori, ma insomma diciamo una ripartenza come minimo col piede giusto a Palermo. Allora mi incuriosisce molto l'idea che due squadre in corsa così diverse anche in situazioni di classifica e ambientali, oltre che ambientali così diverse, per queste due situazioni così lei sia riuscito comunque a trovare subito una ricetta. Mi incuriosirebbe sapere come. Cagliari è successo questo, io sono arrivato a gennaio e a gennaio con la società, con il presidente, si è preso qualche giocatore che io conoscevo bene, vedi Gedà, vedi Storari, vedi Cossu, qualche altro giocatore è andato via e quindi lì, così dal 7-8 di gennaio, si è incominciato a lavorare con una grande collaborazione da parte della società e del gruppo e della squadra. Quindi la fortuna di soprattutto sono state queste, ecco. Società che è stata molto chiara e sempre presente e gruppo di giocatori che io conoscevo bene, che era un gruppo di giocatori di spessore umano e tecnico. Quindi questo è stato il segreto del Cagliari. Beh, però lei la fa abbastanza semplice, perché in una situazione di quel genere mi domando, è una molla in più il fatto che ambientalmente non ci sia quasi più nulla da perdere, perché ricordo quella classifica, può essere una molla in più oppure è un nemico in più da combattere per lei? È certo una grande difficoltà da superare. Fra le altre cose, un suo collega, io non sapevo questo, mi ha detto che non è mai accaduto che una squadra che finisse il girone d'andata a 10 punti alla ci fine serve. Poi si salvi. Ecco, questo non è mai accaduto nella storia del campionato italiano, quindi questa è un'impresa che rimarrà. Però storica, tanto più che poi non era mai accaduto e il Cagliari si è salvato anche con qualche giornata d'anticipo, tra l'altro. Sì, con due giornate d'anticipo. Questo era è stato l'approccio cagliaritano. Quello sì. Palermitano, insomma, dopo quello palermitano, guardi, ci sono per me un allenatore deve avere la fortuna, poi naturalmente deve avere idee e deve anche saper lavorare bene, perché la fortuna è questa, quella di avere una società che ti è vicina e un gruppo di ragazzi di qualità nelle persone e qualità come giocatori. Detto questo, quindi la società e il gruppo di giocatori, poi l'allenatore cosa fa per me? Deve avere due punti forti, deve presentarsi per quello che è, quindi con i suoi pregi, i suoi difetti come uomo. Senza recite, per tornare all'inizio. Esatto. Deve essere proprio molto trasparente e poi se uno trasmette anche dei valori buoni, la trasparenza in questo caso è un grande vantaggio, e deve avere delle idee, deve saper lavorare, deve così coinvolgere il gruppo nelle sue idee, nel lavoro che poi va a fare. Ecco, quindi grande trasparenza, idee, tanto lavoro e coinvolgimento. Questo credo sia così la nostra ricetta. La capisco e la apprezzo. Trovo che sia nell'uno che nell'altro caso, per ottenere risultati così immediati, ma sia a Cagliari che a Palermo, ma anche incidendo, no, sulla qualità del gioco, probabilmente, non so se lei soltanto o voi allenatori, vi portate in giro comunque un bagaglio di conoscenza notevole delle caratteristiche di chi andate ad allenare o di chi comunque opera in Serie A, cosa che per esempio un allenatore straniero che arriva da fuori senza far nomi, magari anche dopo settimane o dopo mesi, non ha ancora, forse fa più fatica. Può essere un parametro anche questo? No, certamente è un parametro. Senza far nomi, l'allenatore dell'Inter, ecco, che si chiama Mourinho, io credo che lui sia molto stimolato, no? Nel venire qui da noi, nel confrontarsi con il nostro calcio, con le difficoltà, con i giocatori che magari i giocatori dell'Inter li conosce bene, ma quelli che deve affrontare del Palermo, del Catania, della Regina, probabilmente li conosce meno, ma insomma l'uomo, le sfide sono molto molto stimolanti, no, per ognuno di noi. Quindi. Sì, ma io parlavo proprio di conoscenza degli avversari, non tanto. No, ma è così. Ma guardi, io mi auguro un giorno di poter andare così in un'altra nazione e arricchirmi sotto tutti i punti di vista. C'è già andato vicino ultimamente, se non... Sono andato vicino perché, sì, è vero, perché una persona di una società inglese mi aveva contattato così, mi aveva chiesto se avevo piacere di andare a lavorare. E lei invece dopo Cellino ha scelto Zapparini, che per carità, queste sono battute, ovvio, e sono forse anche luoghi comuni, ma insomma, se prendiamo le statistiche, diciamo che quella percentuale di precarietà che c'è nel vostro lavoro, che è insita, diciamo che in certe società magari è un pochino più alta. Ma sono, allora, prima di tutto, guardi, io ho avuto la fortuna, loro hanno scelto me, quindi Cellino mi ha scelto e questo... sarò a lui sempre grato. Lo stesso discorso vale per Zamparini, che mi ha voluto conoscermi e certo, quindi mi ha scelto. Detto questo, sono comunque presidenti che per noi allenatori ce ne vorrebbero tanti di presidenti così, perché danno comunque posti di lavoro. Bravissimo, posti di lavoro posti a tanti allenatori. E la mia proposta quando io ero a Cagliari era proprio questa, di fare di Cellino il presidente onorario degli allenatori, perché ecco, lui trova posto di lavoro a tanti allenatori. Fantastico, è verissimo. Sì, ho letto su Repubblica un'intervista a Lotito, che oggi ovviamente è uno degli uomini copertina del giorno e direi meritatamente. Gliel'avevo già sentito dire in un'intervista invece, come dire, parlata, ma così come è difficilissimo orientarsi, questa è un'opinione personale, tra quando Lotito parla, perché uno perde il filo orientamento delle subordinate, invece a leggerlo è indubbiamente più semplice, perché c'è stato prima evidentemente una specie di simultanea da parte del giornalista. Lui sostiene che nel calcio il 50% è dato dalla casualità, non dice fortuna esattamente, perché poi le parole le studia anche, e dice la casualità. A me sembra una percentuale no, molto alta, e credo che un tecnico, un pragmatico di campo non la condivida, credo. No, ma non credo, io guardi, non conosco il presidente Lotito, ma credo che nemmeno lui creda a questo. Ecco, lui probabilmente in questo momento, e io credo giustamente, insomma, il suo lavoro sta venendo fuori, perché è una persona che ha dimostrato nel tempo di avere competenza, no? Perché sì, ha preso una società che era in grande difficoltà e lui è riuscito a portarla, insomma, su una strada giusta. Io credo che nemmeno lui creda che il 50% di calcio sia casualità. Al contrario, il calcio, lui lo ha dimostrato, il calcio è serietà, competenza e tanto tanto lavoro. Siamo arrivati all'intervallo per il traffico, l'intervista a Ballardini continua subito dopo. Dica a Ballardini, scrive Moreno Giallella, che dopo Cellino e Zamparini la sua strada sarà in discesa e che venga subito alla Juve, visto che è un grande. Della Juve parleremo, verrà subito a Torino sabato, però sulla panchina del Palermo, e quindi vedremo come andrà a finire. Lei una volta si è definito, adesso non ricordo la parola testuale, ma insomma il concetto era chiaro, si è definito un sacchiano con riserve. In che senso? No, io guardi, ho avuto per 3 anni, arrivo come allenatore. Sì. E la persona, la competenza, l'entusiasmo, la determinazione, questo lui me lo ha trasmesso, perché io parlo così degli anni, dei primi anni 80 mi pare, e allora insomma 27-28 anni fa tutto questo entusiasmo, tutte queste novità anche per me erano così molto molto stimolanti da giovane giocatore. Poi cosa dico? Io da quando alleno, la mia probabilmente vogliamo arrivare, il punto d'arrivo è identico, ma la metodologia, le idee e soprattutto il metodo di lavoro per arrivare allo stesso obiettivo è molto molto diverso. Quindi per me è importante che la squadra si diverta quando si allena, è importante che nel divertimento ci sia tanto apprendimento, e quindi con divertimento e con l'apprendimento poi le sedute d'allenamento sono così molto, molto coinvolgenti e stimolanti per tutti. Quindi è una, se non capisco male, è una differenza di filosofia di partenza che poi si traduce, esatto, in atti. Cioè, esatto. Cioè con Sacchi bisognava soffrire tendenzialmente, guarda, ricordo, e con lei bisogna divertirsi invece. No, io dico questo, guarda, con Sacchi c'erano tanti esercizi, mentre con noi c'è tanto gioco. Quindi ecco, questo è, ma gioco non si intende gioco punto e basta, gioco fatto di lavoro. È mirato, però, certo. Però si parte con Sacchi, si partiva dall'esercitazione, con me si parte dal gioco e poi dal gioco si va a ritroso, si va a colpire la squadra, il reparto, l'individuo. Lei non avrebbe, non credo avrebbe litigato con Van Basten, insomma, occhio, mi sembra di capire. Ma non so, forse magari 20 anni fa anch'io ho litigato, perché 20 anni fa non ero come sono adesso. Beh, comunque con questa filosofia, io augurandole una lunga permanenza a Palermo e poi anche un'esperienza all'estero, io credo che sia l'esperienza all'estero che eventualmente in Italia potrebbe essere più su come categoria. Per il momento... Lei appartiene certamente a quella specie di tecnici che usano l'autocontrollo, e questo lo si vede, sa, noi curiosiamo televisivamente con questi zoom sulle panchine, vediamo gente che prende appunti dopo 30 secondi, io personalmente mi chiedo perché, cosa scrivono, se è il sudoku o cosa voglia dire, ma queste sono tutte considerazioni o gag personali. Di sicuro quando beccano lei subito dopo un gol, adesso del Palermo e lo scorso anno del Cagliari, non dico indifferente ma quasi, allora la domanda è: le rugge dentro una cosa che lei deve soffocare, e in questo caso perché, oppure è davvero così? No, è davvero così, spiego, ma è semplice, è davvero così perché per me la partita l'hai vinta quando l'arbitro fischia la fine, quindi sì. Visto che fino ad ora ho sempre, diciamo così, abbiamo sempre fatto partite dove il risultato è sempre stato molto, molto in bilico, quindi il fare gol... Certo, è per me una grande soddisfazione, ma penso che quello insomma, la soddisfazione più grande debba arrivare alla fine. Quindi sono certo molto contento, ma sono concentrato, ecco, per tutta la gara. Cioè, non si levano i pugni al traguardo volante, insomma. Sì. Ecco, adesso io poi vengo, mio nonno, insomma, io ho un'estrazione contadina. Sì. Ecco. E allora quando il risultato, la soddisfazione, il raccolto, insomma, si festeggia alla fine, quindi bisogna sempre festeggiare alla fine e bisogna essere sempre molto attenti e concentrati fino alla fine. Insomma, queste origini di civiltà contadina sono un tassello in più che contribuiscono a ricostruire il personaggio, anche se lei mi sembra proprio l'antipersonaggio per eccellenza, per scelta direi, no? Più che per... Ma non lo so, guarda, se è per scelta o per qualcos'altro. Per natura, probabilmente. Così e basta. Ecco, è così, no, e basta. No, e non ha intenzione di cambiarsi. Già quel rifiuto. Ma no, cambiare, mia moglie mi dice che devo cambiare, perché ho tanti difetti. Col tempo magari qualche difetto lo eliminerò pure. Basta che non sia in direzione marketing e poi... Ecco. Basta che lei non impari cosa vuol dire quella parola, dopodiché... No. Dopodiché andiamo bene. Due o tre domande finali, che sono un po' più di attualità. Lei ha speso parole splendide per Brienza e per il suo gesto di domenica scorsa, gesto che indubbiamente merita una levata di cappello. Secondo me, visto dalla parte del cuore, visto dalla parte della mente, io mi domando se il suo presidente, nel senso di associazione allenatori, cioè Ulivieri, non abbia invece ragione quando dice: ma non c'eravamo messi d'accordo che a fermarci può essere solo l'arbitro? E allora, alla luce di questa, di questa riflessione, no? che di questo ripasso, e senza, almeno da parte mia, senza minimamente censurare Brienza, perché l'istinto è l'istinto, e in un caso del genere, ecco, dobbiamo ritarare questo giudizio oppure rimane... No, per me, guardi, ha ragione Ulivieri, perché per me deve essere quella la regola, cioè l'arbitro è l'arbitro che decide quando fermare l'azione. Detto questo, poi dopo lei sa bene che c'è anche il buon senso, ci sono delle eccezioni, e lì c'erano due ragazzi che si erano scontrati con la testa. Brienza ha visto tutto questo e i due ragazzi, ragazzi mi riferisco a Balzaretti e Corradi, direi. È bravo, è Corradi. E lui ha visto questo e per me lui ha fatto il gesto fair play dell'anno, perché dove può succedere dove magari non, l'arbitro non arriva in quel momento, perché può capitare che l'arbitro faccia anche lui un errore o stia già guardando altrove il prosieguo dell'azione. Lui ha fatto un gesto che per me questo è un gesto che tutti i ragazzi, i bambini che così incominciano a giocare a pallone e tutti vedono la televisione, questo è, vale quanto un gol di Maradona, vale quanto un gol di Kakà, perché è davvero un grande esempio positivo quello che lui ha fatto. Un mese fa, perché poi il campionato è partito un mese fa circa, sembrava abbastanza cristallizzato in partenza una situazione con cinque squadre fuori portata, e in queste cinque c'erano Roma e Fiorentina. Adesso è passato un mese solo e sembrerebbe, adesso usiamo il condizionale, sembrerebbe che sia sempre ancora un campionato a cinque, ma con la Lazio e il Napoli al posto di Roma e Fiorentina. In questo divenire, dove pensa di potersi collocare o sin dove ambire il Palermo? Il Palermo deve, per me, ci vogliono ancora diverse partite. Dobbiamo ancora aspettare un paio di mesi. Poi vediamo questi due mesi cosa ha fatto il Palermo, come ha giocato il Palermo, quali risultati ha ottenuto, e poi saremo tutti più chiari, ecco. Ma ora ecco, per me la certezza è questa, come ha detto giustamente lei, che oltre alle cinque squadre, Lazio e Napoli probabilmente, non dico che lotteranno per vincere lo scudetto, ma comunque sono molto molto vicine a Roma e a Fiorentina. E a poter competere. Il primo test di questi due mesi che lei richiede, insomma, per capire fino in fondo, è indubbiamente sabato, perché è sul campo della Juventus, che sappiamo che squadra è, e sappiamo che obiettivi ha, ma sappiamo anche che qualche problemino lo sta attraversando, e questo è il momento probabilmente per chi la deve affrontare di provarci, no? Di provarci un pochino seriamente. Lei lo considera questo un test di maturità? Purtroppo lei poi probabilmente lo sa meglio di me, purtroppo quando si incontra la Juventus che sembra sia in difficoltà, quello è il momento, perché la Juventus è una grande squadra, ha un grande passato, ma ha una storia dietro importante. Purtroppo quando si incontra la Juventus così, magari che si crede sia in difficoltà, è il momento di farsi far male. Esatto. Quindi noi sappiamo questo, certo è che è un bel esame, è una bella vetrina, e faremo di tutto per essere competitivi, perché per me noi abbiamo i mezzi tecnici per poter fare una buona partita anche a Torino contro la Juventus. Bocca al lupo, Ballardini. Io la ringrazio, crepi il lupo, buona giornata. Grazie davvero a lei, buongiorno. Bel personaggio Ballardini, scrive Gabriele da Biella. Lo vedremo in una grande squadra. Beh, Palermo non è piccola, eh. Comunque gliel'auguro di cuore. Se devo mettere un senso sulla schedina, metto uno, e cioè dico sì, prima o poi. La stessa cosa scrive Cami da Brindisi. Un personaggio lui sì da seguire, a differenza di altri. Beh, insomma, ci sono dei rimandi indiretti. Io dico che comunque vada l'avventura di Ballardini a Palermo, e andrà certamente bene. Ripeto, però, comunque vada, non sarà Guidolin a succedergli il giorno che Zamparini avrà uno dei suoi colpi tradizionali, visto che da ieri Guidolin è l'allenatore del Parma. Ascoltiamolo. Per vincere un campionato, è cosa che è nelle possibilità di questa squadra, io ritengo, bisogna rimettersi a correre forte, alla pari proprio con gli avversari che si trovano davanti. Ci vorrà grandissima solidarietà da parte di tutto il gruppo e grande disponibilità e totale umiltà, perché gli avversari non si battono perché magari il passato della squadra per la quale giochi è importante o più importante dell'avversario che affronti. Non conta niente quello, conta solo il presente, conta solo l'immediato futuro. Il primo ascoltatore di oggi, dalla provincia di Viterbo, Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. È sempre un piacere. Ballardini mi sembra soprattutto una persona educata, che è cosa molto importante nel mondo del calcio. Sì. Senta, una cosa. Allora, Ballardini ha detto che non si era mai salvato una squadra a 10 punti e poi si era salvata nel secondo girone. La Lazio dell'83-84 finì a 8 punti e si salvò all'ultima giornata, però non era questa la cosa che... Era un'anomalia per una penalizzazione, comunque... Cioè... Era una squadra che aveva, mi scusi, ma quella Lazio non era conciata male come il Cagliari di quest'anno, nel senso che era una squadra di risorse superiori, ma aveva una penalità forte da scontare, mi pare di ricordare. Sì, sì, no, comunque non era questo. Il discorso era, una domanda che volevo farle da un po' di tempo, quanto sono importanti all'estero gli allenatori? Secondo me in Italia, vedi Mourinho, vedi anche altri in passato, sono un po' troppo considerati anche a livello economico. E se all'estero c'era la stessa attenzione per il tecnico, cioè in Italia spesso non viene sempre apposto in secondo piano magari un gesto tecnico, un gesto atletico di un giocatore, piuttosto che uno svista, uno sbaglio di un allenatore oppure qualcosa che ha giocato un allenatore, cioè secondo me coprono un po' troppo i mass media. Sì, io ho sempre pensato che si tenda un po' a esagerare l'importanza del tecnico, però ci sono delle eccezioni, così come ci sono allenatori che sono molto più importanti di quanto non si creda nel fare danni, e questa è una vecchia tesi di Gianni Rivera che sottoscrivo in pieno, così è anche vero che al contrario ci sono allenatori che, insomma, l'esempio di Ballardini a Cagliari credo che sia proprio assolutamente emblematico, possono essercene altri, all'estero non credo che siano poi tanto, tanto inferiori a noi come guadagni, a parte lo Special One, mi sembra che all'estero qualcosa di più guadagnino, perlomeno al vertice. Se lei pensa che Juan de Ramos, per esempio, ha un contratto che è allenatore del Tottenham, che tra l'altro è al Tottenham da un anno, è arrivato strapagato dal Siviglia, perché Siviglia in quel momento era la squadra sulla cresta dell'onda, e sta facendo molto male, e ha però un contratto fino al 2012, credo, di 6-7 milioni di euro, quindi... un po' tutto il mondo è paese, credo che la globalizzazione valga anche per questo aspetto. Alessandro Cosenza, buongiorno. Salve, buongiorno. Io volevo ritornare appunto su Mourinho e dire che secondo me sta costituendo un boomerang per l'Inter, in quanto è arrivato da Special One, l'esordio non è stato dei migliori, per di più adesso si sta inimicando tutta la stampa e diciamo l'opinione pubblica con questo suo modo di fare, senza guardare che forse domenica sulle panchine il più titolato era Ancelotti rispetto... E l'ho anche dimostrato con i fatti, mi pare, no? Comunque azzeccando perfettamente una partita, Ancelotti, a differenza sua. Mourinho recita un personaggio, recita un ruolo, e ci sono delle recite che gli vengono brillantemente, perché l'uomo è indubbiamente intelligente, preparato, e poi ogni tanto il gusto di provocare lo porta ben oltre le righe. Cristian, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, grazie. Dica. Per avermi richiamato. Prego. Io volevo ricollegarmi al discorso che faceva prima sugli appunti di Mourinho. Prima, sì. Sì. mentre parlava con l'allenatore. Sì. È noto che una certa hanno in tanti allenatori. Volevo farle solo un esempio. Lei penso che sappia meglio di me chi è Van Gaal. Sì. Mi ricordo che quando allenava l'Ajax, persino il primo anno che è andato al Barcellona, lui aveva 4 assistenti di fianco a lui, tutti muniti di block notice. E il primo curava la difesa, il secondo il centrocampo, il terzo la fase offensiva, il quarto curava i fuorigioco. Dunque sono manie che hanno in tanti. Sì, ma io infatti mi prendevo già la pancia in mano ai tempi di Van Gaal, non ho mica aspettato Mourinho per divertirmi da questo punto di vista. Quello che mi incuriosisce, mi ha sempre incuriosito, è questo, dato che insomma capita anche a noi, no, di usare i taccuini ogni tanto, magari allo stadio, magari guardando una partita di cui poi devi scrivere o devi raccontare, dico magari per scherzo, perché sto cercando di imparare l'ironia da Mourinho. E quindi capita anche a noi che prendi un appunto, scrivi una cosa, perché? Perché hai paura di dimenticartela, questo è perfettamente legittimo. Ma in quel momento abbassi l'occhio e ti sfugge comunque qualcosa, un particolare, un dettaglio, che poi devi rimediare. Quello che non capisco è perché nel corso di una partita che tu hai preparato prima, è proprio un discorso teorico questo più che pratico, che tu hai preparato prima perfettamente nel dettaglio, se in quel momento noti qualcosa che non ti torna o che comunque vale la pena di essere appuntato, piuttosto usa un registratore, dico io. Tanto il cronometro ce l'ha, mi pare, al polso, no, Mourinho? Adesso non ricordo più la valutazione a suo tempo, ma era discreta. Quindi, supponendo che abbia al polso un orologio che funziona, lui potrebbe, continuando a non staccare gli occhi dal campo, dire 2 minuti e 35, Pirla di, per usare sempre il suo linguaggio, quel Pirla di X ha perso un pallone che non deve perdere, oppure non ha fatto la diagonale che doveva fare. Io credo che sarebbe più funzionale, ne faccio un puro discorso di funzionalità, tutto qua. Alessio, provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo fare parlare su tre punti. Innanzitutto fare i complimenti al signor Ballardini, che secondo me è un grandissimo allenatore, tra l'altro della scuola del grande Arrigo Sacchi. Io sono un tifoso interista che però mi ritengo uno sportivo che sbavavo ai tempi del grande Milan, e quindi volevo dire insomma che è un grande allenatore. E il secondo punto è appunto legato anche a questo discorso, che secondo me in Italia abbiamo i più grandi allenatori, e essendo interista io sono contrario, l'avrà capito, a Mourinho. Mm-hmm. Secondo me è un ciarlatano che parla e basta. Purtroppo rimpiango il grande Roberto Mancini. Ecco, per esempio, Mourinho appena arrivato mi viene a parlare di linea alta difensiva. Io ho assistito a una partita del derby dove abbiamo giocato con il centrocampo sulla linea dell'area di rigore, una cosa vergognosa. Premetto subito che il Milan ha vinto il derby meritatamente, ma non andrà lontano, perché abbiamo risuscitato i cadaveri, secondo me. Un Milan che arriverà sicuramente quarto, un altro, cioè forse riuscirà ad arrivare al quarto posto, però abbiamo risuscitato i cadaveri. Secondo me è stata una piccolissima Inter più che un grande Milan, come i giornali hanno voluto far credere. Va bene, grazie Alessio. Torniamo a qualche voce, no, torniamo anche a una bella notizia che riguarda, no, una bella, riguarda una vicenda drammatica, però è una buona notizia, dato che non mi capita perlomeno spesso di parlare bene della Federcalcio, stavolta lo faccio volentieri, perché in occasione di Italia-Montenegro in programma Lecce il 15 ottobre per le qualificazioni mondiali, la FIGC ha deciso di destinare un primo stanziamento di 150.000 euro provenienti dall'incasso di quella gara alla ricerca sulla SLA. Il presidente Abete ha confermato l'impegno di tutte le componenti federali per approfondire studi e ricerche sulla SLA, mentre al professor Paolo Zeppilli è stata affidata la responsabilità di un gruppo di lavoro a carattere scientifico, a cui saranno chiamati a partecipare medici, specialisti e maggiori esperti del settore. Questa mi sembra una cosa assolutamente da rimarcare. Una voce, per esempio, no, quella lì, lasciamo stare, non esageriamo con la pubblicità a Mourinho, che secondo me ci campa. Sentiamo la vigilia di Spalletti da Bordeaux. Loro effettivamente le hanno delle qualità anche individuali, in Chamakh, che è un calciatore interessante sotto l'aspetto del movimento e della qualità che propone. Hanno Kavenaghi, che è uno probabilmente più bravo poi a farsi trovare nel punto giusto al momento giusto senza apparire moltissimo. Hanno Bellion, che ha grandissima gamba e riesce a ribaltare facilmente le azioni, perché è uno che attacca facilmente la profondità. Hanno la nostra conoscenza Gorkov, che qui si è espresso al massimo. Non si può dire che ad alcuni di voi sfuggano i dettagli. Siamo al quarto messaggio di ascoltatori che scrivono l'esatto importo, l'esatto valore dell'orologio che Mourinho porta al polso, 213.000 euro, che rappresentano comunque un'inezia rispetto alle entrate. D'altra parte, insomma, qualcosa dovranno pure investire, poveretti, no? Che ne pensa del Parma un altro discreto allenatorificio? Beh, questo è un neologismo che però ci sta. Io penso che il Parma sarebbe tuttora in Serie A se l'anno scorso questo presidente, questo giovane presidente bresciano un po' vulcanico, non avesse avuto la balzana idea di chiamare Cooper a capezzale al posto di Ricarlo. Io credo che sarebbe ancora in Serie A a quest'ora, invece non c'è. Dopo 6 giornate Cagni, con cui si era fatto un programma a lunga scadenza, è già stato sollevato all'incarico per Guidolin. Insomma, mi sembra che le idee non siano chiarissime, anche se oggi in particolare in questa giornata mi sembra che da Parma arrivino notizie di cronaca nera, anzi di cronaca negra, di ben altra gravità che non queste sciocchezze che riguardano gli allenatori. Molto bello il messaggio, questa mail tra le tante che arrivano, firmata Marco Stupino. Dice: mi sono preso la briga di leggere la risposta della società di Catania Calcio in riferimento all'aggressione di domenica ai tifosi del Chievo e credo sia necessario e urgente proibire le trasferte ai tifosi del Chievo che hanno lerciato le tranquille strade intorno allo stadio con vetri e tergicristalli. C'è in linea Francesco dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senti, io volevo solo fare una battuta. Volevo dire qual è la differenza tra tutti gli allenatori, il 90%, che arrivano in una nuova squadra e sembrano nastri registrati, perché dicono sempre le stesse cose, e Mourinho che spara delle, tra virgolette, cavolate, no? e fa ridere. Siccome il calcio a me dà soddisfazioni personali e basta, e non economiche, almeno ridiamo un po' con Mourinho. Invece sentivo prima Guido lì, cioè, cosa ha detto? Cioè, dice sempre, a Palermo dice quelle cose, dice sempre quelle, sono nastri registrati. No, in quest'ottica è certamente vero. Io su questa strada la seguo indubbiamente. Poi credo che da una parte l'importante sia non esagerare. E quindi da una parte non bisognerebbe esagerare in banalità e in stereotipi e in frasi fatte. Dall'altra bisognerebbe non esagerare in provocazioni. Alla fine, insomma, questa categoria è una categoria che va giudicata sul campo, e quindi è ovvio che insomma, occorre del tempo, se, nella fattispecie sia Guidolin che è allenatore almeno di 24 ore che ha Mourinho, che insomma è qua già da un pochino di più, ma che comunque è pur sempre a inizio stagione. Il ripasso di storia è affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 1 ottobre 1961, settima giornata di campionato. A San Siro va in scena il derby, il primo per l'allenatore del Milan Nereo Rocco, che sfida il rivale nerazzurro Elenio Herrera. L'Inter capolista parte favorita, anche perché i rossoneri, che schierano il 18enne Rivera col numero 11, devono rinunciare agli squalificati Salvadore e Altafini. Ma è il Milan a passare in vantaggio, dopo 18 minuti con Pivatelli. L'Inter accusa il colpo e a inizio ripresa subisce anche il 2-0, firmato dall'inglese Jimmy Greaves. Il raddoppio dà la scossa all'Inter. Luisito Suarez, anche lui debuttante al derby, accorcia le distanze. Il finale è un assedio nerazzurro, dal quale però la squadra di Rocco esce indenne, trovando addirittura il modo di realizzare il 3-1 finale, con Oliviero Conti in contropiede. Alla vigilia di quel derby, Nereo Rocco, il leggendario, replicò una battuta di 4-5 anni prima a Padova, perché dato che era il debutto c'era questo suo debutto nel derby, dall'altra parte c'era Herrera, c'era un Inter certamente in grande crescita e a lui mancavano, come ha ricordato Filippone, Salvadore e Altafini, cioè il perno della difesa e il più grande centravanti d'Italia e forse tra i primi al mondo in quel momento. Ci fu un qualcuno che alla vigilia di quella partita gli disse: signor Rocco, va bene, vinca il migliore, e lui appunto ripeté la sua immortale battuta: ciò speremo di no. Tant'è vero che poi vinse il Milan. Aldo da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Un piacere parlare con lei. Sì. Diciamo che quello, vorrei dire una cosa che cade a fagiolo perché riguarda Rocco. Faccio una piccola premessa sull'ascoltatore di prima, e diceva che è stato un piccolo Inter e non un grande Milan. Io sono un gobbo, ma credo che ad Ancelotti vadano riconosciuti dei grandi meriti, perché Seedorf davanti alla difesa sinceramente non so come se lo sia inventato, ecco. E comunque il Milan sì. Io credo che se lo sia inventato parlandone con Seedorf. Se lei ha seguito in queste ultime uscite, gli abbracci tra Seedorf e Ancelotti testimoniano di un rapporto speciale che c'è tra queste due persone, no? Ben prima che personaggi. Quindi evidentemente è stato un dialogo, e proprio come i tempi del parole. Io credo che lentamente Carletto Ancelotti cominci a somigliare, senza la stessa verve, senza la stessa, cioè sono persone diversissime, sono epoche diversissime, ma per il rapporto che ha saputo creare con i giocatori, e in particolare con i giocatori della vecchia guardia, io ho l'impressione che Carletto cominci a essere su quel solco. D'accordo con lei, tant'è che poi voglio dire, cito Nero Rocco dal suo libro bellissimo, almeno secondo me, il libro di Garanzini, la leggenda Nero Rocco, la leggenda del Paroni, quale diceva a Gianni Rivera, e dico Gianni Rivera, mi te dico questo, mi te dico quell'altro, ma in campo te va ti. E sì. Quindi credo che questo riassuma veramente che l'umanità e la grandezza di una persona stia proprio nella semplicità, perché non esistono grandi allenatori senza grandi giocatori. Questo penso che tutti gli allenatori se lo dovrebbero ricordare, insomma, ecco, anche i più bravi, perché a volte pensano di contare forse più degli allenatori, ma non può mai essere così, perché in campo vanno loro. Questo è Vangelo, Aldo. La ringrazio della sua memoria, della citazione anche. Ma insomma, il calcio è rimasto questo. Poi è cambiato da mille punti di vista, e magari forse anche più di mille, ma lì credo che ci siamo grosso modo ancora. Marco ha chiamato da Novara. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Dica. Mi spiace che abbiano chiamato Guidolin, perché sarei stato più contento se avessero richiamato Ranieri, primo. Secondo, mio figlio ha 10 anni, Fiorentina-Juventus, 10 minuti dalla fine, vinciamo 1-0, mi dice, ma perché non cambia, papà? Cioè, mio figlio ha 10 anni, gioca negli esordienti, voilà, 1-1. Con l'Udinese, vabbè, non male. Col Catania ha tirato fuori Giovinco e Marchisio per mettere dentro Thiago e Nedved. Nedved lo sappiamo tutti, sarà un grande giocatore, ma ci vuole un tempo ora che prende il tempo. Questo lo potrà riconoscere anche lei, spero di sentire la sua risposta per radio. E poi una cosa, mi prendo le mie responsabilità, Marco Gargioni è un mediocre e deve allenare una squadra di mediocri. Non si può andare a giocare il trofeo Berlusconi, anche se non c'entra niente, e venire a casa con 4 gol. Noi siamo la Juventus, perdi 1-0 male, ma non puoi prendere 4 pere e venire a casa. Tutto qua, vorrei sentire la sua risposta per radio. Buona giornata. L'ha già detto lei, non ci sono risposte per questi sfoghi. Hanno il loro spazio, basta, l'ha fatto, si è levato la voglia. C'è del vero in quello che lei dice, non in queste proporzioni. Fabio, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, per l'obiettività. No, io torno, scendo in una squadra piccolina come il Toro, e le chiedo un parere su quella che è la sua situazione, su cosa si può fare secondo lei per cercare di sgravare un po' questa area che si è creata nelle ultime due partite di un po' di pesantezza, se si recupera un Rosina secondo lei che possa fare la differenza. Ma quale e poi soprattutto questa, cioè, a me pare avendo visto quello che ho visto, che l'attacco un pochettino meglio rispetto all'anno scorso sia costruito. La difesa, ahimè, sembra ancora fortemente debole, ecco. Sì, io credo che la mossa giusta era da fare in estate, quando il Cagliari lasciò andare Ballardini. Questa è una mia idea, che riguarda il Torino, ma riguarda anche altre società. Sono rimasto molto, molto colpito quest'estate. Cioè, mi ha sorpreso molto che una volta che il Cagliari lo ha liberato non ci fosse la fila fuori dalla porta di Ballardini, ma questo è un altro discorso. Che Rosina possa fare la differenza? Comincio a pensare che sia una pia illusione. La differenza la fanno i campioni. Rosina è un giocatore di buon talento, però mi sembra molto discontinuo, mi sembra anche molto, molto personale nel modo di giocare. Insomma, non credo che il Torino farà fatica a salvarsi esattamente come negli altri anni, anche se potenzialmente qualcosina in più rispetto al passato dovrebbe avere. Mi pare anche che giochi tatticamente con poco realismo e con un tantinello di spocchia in partenza che non è mai un buon modo di approcciare le partite, soprattutto con le, tantomeno con le grandi. Gianmaria ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno dottore, ci siamo sentiti la settimana scorsa su Mourinho, quando dicevo che aveva questa forte personalità e che quindi riusciva a fare seguire dei giocatori. Lei mi disse, bisogna vedere la prima sconfitta. L'abbiamo visto e secondo me non se l'è gestita troppo bene, perché come non so se lei ha visto o seguito la domenica sportiva, come ha risposto Collovati e come si è aggrappato al discorso del fallo della discussione di Burdisso, che sul primo era discutibile, ma secondo era un fallo forse da rosso diretto. Ma comunque, soprattutto ce n'era un altro da rosso diretto che era Stankovic. Comunque sì, Gianmaria, lei ha... Vediamoli, insomma, ma non solo gli allenatori, le persone e i professionisti in genere si giudicano più nella cattiva che non nella buona sorte. La buona sorte non dico che siamo buoni tutti, ma quasi. Visto che ha chiamato da Genova, l'ultima notizia che avevo così da segnalare oggi è questo brutto infortunio a Palombo, che ovviamente peserà moltissimo sulla Sampdoria, ma pesa anche sulla nazionale, perché si parla di almeno un paio di mesi di stop per un brutto guaio muscolare che ha accusato proprio nella partita contro la Juventus. Abbiamo concluso anche oggi, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.